tensione evolutiva. E questo era Lorenzo Cherubini in arte Giovannotti. Benvenuti a Tensione Evolutiva 3.0, il programma per chi ha sangue nelle vene e una ragione per vivere. Ti ringrazio di cuore, ma ringrazio da subito Blu Radio Veneto. Ringrazio Francesco che ci guida e ringrazio la direzione di Blu Radio Veneto. Chi sono io? Io sono Giovanni Garavello e faccio il doppiatore. Pensa te, e l'autore di questa trasmissione. Ma oggi chi è che c'è qui con me? Daniele Longato. Lui sarà spesso con noi in questa trasmissione e farà il co-conduttore. Oggi lo intervisteremo. Cosa andremo a fare in questa trasmissione? Andremo al nocciolo della soluzione con tantissimi ospiti. Il primo ospite è... Daniele Longato. Il tema di oggi è propositi e spropositi. Ma chi sei, Daniele? Per lo Stato italiano e maltese sono Daniele e ho 36 anni compiuti da poco. Per quelli di casa sono Lelle. Alcuni vedono nella mia fototessera un famoso personaggio dei cartoni animati e per la maggior parte Daniele preceduto da tre lettere o semplicemente tre lettere. Mi sembra che oggi hai un po' di raffreddore, cosa capita? Decisamente sì. Il tempo meteorologico ha influito anche sulla mia salute. Sì, infatti sappiamo che in questi giorni c'è un po' di aria, di vento e anche speriamo di sangue nelle vene. Durante questa trasmissione, Daniele, noi avremo qui con noi diversi ospiti che cercheranno di andare non tanto ad analizzare i problemi, ma ad andare a vedere le soluzioni del problema. Molti mi hanno chiesto, ma come mai hai chiamato un prete la prima volta a parlare proprio di queste cose? Cioè, cosa fai tu nella vita? Perché secondo te ti ho chiamato a parlare di propositi, di spropositi? Cosa faccio nella vita? Beh, potrei rispondere semplicemente il prete, ma in verità sto notando come di anno in anno, a seconda delle situazioni, degli incarichi che appunto mi vengono affidati, sono chiamato ad assumere varie competenze, ruoli diversi. Per questo motivo mi sento sempre in divenire, o per usare un'espressione cara a questo programma, mi sento in tensione evolutiva. Però, dai, qualcosa di più preciso posso dirlo. Attualmente faccio il direttore di un grande patronato, odoratorio, come chiamano altri, della Bassa Padovana. Incarico che mi impegna parecchio, comporta molte responsabilità e anche parecchi grattacapi. Chiedetelo ai miei capelli. Difatti sei un po' sul calvo in questo periodo. E dato che il ruolo di direttore e amministratore mi sta un po' stretto, trovo più gioia e serenità nel definirmi un educatore o formatore, perché molto attivo nella pastorale giovanile, seguo vari gruppi associativi, Azione Cattolica, Scout, gruppo di volontariato. E lo sport certo mi appassiona particolarmente, soprattutto il volley, e per questo qualcuno ha iniziato a chiamarmi anche Don Coach. E concludo però che l'attività che in questi ultimi anni mi sta affascinando maggiormente, mi appassiona sempre più, è quello del comunicatore, dove riesco a mettere a frutto alcuni talenti che mi caratterizzano. Parlo in questo caso della, così per usarmi un termine più pretesco, vocazione, che è quello della comunicazione, della chiamata alla comunicazione, usando la fantasia e la creatività. Ecco, intanto abbiamo presentato il famoso Don Lupin e ci sentiamo dopo. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts, I know. years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Show them all I know now. Show them from the rooftops. Waited on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken. Oh, hope would be impossible. Impossible. In questi giorni si è fatto un gran parlare Don Lupin, Daniele Longato, di un personaggio che è diventato famoso suo malgrado negli Stati Uniti. È un papà di famiglia che ha scoperto purtroppo di avere il carcinoma, di avere un tumore grave. I medici gli hanno detto che avrà il 92% di possibilità di non farcela. Lui ha due figlie, soprattutto la figlia più grande con cui ha un grandissimo rapporto, e si è inventato una cosa secondo me straordinaria. Ogni volta che la racconto mi vengono i brividi. Se ne è parlato anche a Radio DJ, se ne è parlato anche nei grossi network. Lui ha fatto il conto che la figlia gli mancano 800 giorni per finire le scuole. E cosa fa? Lui sul tovagliolino della colazione, come si fa spesso con i bimbi, no? Gli scrive degli aforismi, gli scrive delle frasi di persone famose, gli scrive delle frasi motivazionali, gli scrive delle frasi anche d'amore, per dare qualcosa di sé, per lasciare qualcosa di sé a sua figlia. Pensa che, caro Daniele, lui ha fatto il conto che praticamente questi tovagliolini non basteranno, almeno anche se ci saranno, non so, dei miracoli o qualcosa, lo speriamo per lui. E ha organizzato tutto per bene e ha preparato, pensati, 800 tovagliolini con scritto su diverse frasi, diverse cose molto molto belle, molto interessanti. Ed ogni mattino gliene consegna uno alla figlia. Non so se tu hai sentito parlare, hai sentito questa notizia in questi giorni di questa persona. Cosa ne pensi, Daniele? Ne ho sentito parlare e credo che come padre fa una cosa saggia, perché fa in modo che la figlia possa ricordare, ed è questa una parola a me cara, perché appunto dice ricordare, cioè ridare il cuore proprio in quei momenti in cui, ecco, speriamo di no, ma ecco, lui non ci sarà più, e lei potrà riprendere quella traccia, quel segno positivo che suo padre sta già dando in questo momento, in cui invece può godere anche della sua presenza e del suo affetto fisico. Quindi pensi che sia utile, insomma, anche lasciare qualcosa di sé, ma non solo, diciamo così, in termini poveri, anche pragmatico, di soldi, o anche, ma tu pensi che sia opportuno anche lasciare qualcosa di sé, lo chiamo interiore, lo chiamo spirito, lo possiamo chiamare, non so, mente, da coach, cosa ne pensi? È opportuno anche lasciare qualcosa di sé anche ai figli da questo punto di vista, oppure no? Ma la motivazione nel mondo del lavoro, ma soprattutto nel mondo dello sport e anche in altri ambienti, credo sia una cosa molto importante, e quello che sta facendo questo uomo, questo padre, è proprio quello di dare motivo alla figlia, non solo oggi ma anche domani, di trovare spazio per quella voce che magari fisicamente non sentirà più, ma che ripotrà ascoltare leggendo appunto questi aforismi, queste parole che un po' le va a pescare da grandi autori, ma sicuramente alcune parole invece saranno proprio le sue. Infatti è una cosa che a me sta molto a cuore, la motivazione. Vivendo in azienda spesso noto che molte persone sono motivate al lavoro, sono motivate a fare bene il loro lavoro. Noto anche che alle volte, un po' per crisi, un po' per altri motivi, un po' anche per problemi familiari, alle volte un po' la motivazione viene un po' a mancare. Io e te abbiamo passato un bellissimo campo scuola, erano anni che non partecipavo a un campo scuola, come si dice, ok? E tu mi hai ritirato fuori un caro idolo che si chiama Nick Vujicic, che è un ragazzo disabile, pensa senza braccia, senza gambe, che è diventato un grandissimo motivatore, perché si dice così, negli Stati Uniti. Lui praticamente va nelle scuole e porta la sua testimonianza. Pensa, lui sa ballare, sa cantare, sa giocare, gioca con i piedi, gioca con quello che resta dei piedi. Anzi, andate su YouTube a vederlo, si chiama Nick Vujicic, personaggio straordinario a mio avviso. E lui si presenta in pubblico appunto dicendo: guardate che ciascuno di noi può cascare nella vita, può cascare nel lavoro, può cascare nella vita familiare, gli può succedere di tutto, però la forza d'animo che ha lui nel riprovare a tirarsi su è straordinaria. Cosa ne pensi di questo personaggio che così abbiamo condiviso questo video in quel meraviglioso campeggio? Sì, spesso questi autori hanno un'esperienza, una storia personale straordinaria e riescono a trovare il modo, le forme giuste per comunicarlo. Credo che davvero queste esperienze ci danno quell'energia in più per evitare di essere come un po' quella macchina che va sempre in riserva e il pericolo di rimanere a secco c'è sempre. Quindi sì. Ecco, avere queste testimonianze, queste esperienze, questi audio, a volte anche video, che ci possono appunto motivare, caricare, credo che siano quel pieno di riserva, di energia, di forza, sì, che ti concedono poi anche nei momenti più difficili di poter, come si dice, andare ancora a tavoletta, cioè andare avanti alla grande. Benissimo, tu hai citato appunto la metafora molto bella dell'auto, e che anch'io alle volte uso nelle aziende o con le persone che incontro, della benzina. È importante che tipo di benzina tu metti nella tua vita. Cioè, un sacerdote, un prete, a me viene da chiedermi: può succedergli che qualche volta si demotiva di fronte a certe cose? Beh, può capitare questo nella vita di tutte le persone, credo. E dicevi il tipo di benzina, beh, io direi, così anche scherzando un po', quella senza piombo, cioè quella che non ti appesantisce, quindi anche l'attenzione a quello che, ecco, facciamo entrare dentro di noi, che può essere esperienza, può essere conoscenza, può essere attività, può essere anche studio. Sì. Cielo senza nuvole, e penserai al nostro amore come a un raggio di sole che ti scalda la mente e il cuore, perché sarà sempre così, sarà così. Bentornati. Volevo salutare un gruppo straordinario che è nato a Stanghella, il mio paese d'origine. In giro sui social network sono nati diversi gruppi nei diversi paesi, intitolati così: Se sei di Stanghella, perché? E sta avendo un successo straordinario, perché è come un ritornare alle nostre origini. Quindi saluto intanto il mio gruppo, perché io mi sento di Stanghella, anche se ho girato parecchio Brescia, Napoli, per lavoro, eccetera. Cosa ne pensi tu su questo tornare alle origini, rispetto anche proprio ai paesi, rispetto a, no? Ci sono molte tecnologie, c'è TV, c'è di tutto ormai. Cosa ne pensi invece di questi ragazzi che ritornano alle memorie loro di quando erano bambini? Beh, questo sicuramente può essere un punto di riflessione, ci fa pensare come oggi ci sia questa esigenza di tornare un po' alle origini, a quelle che sono state le nostre gioie, le nostre esperienze giovanili, e quindi forse anche un tentativo di ritornare ad una autenticità che forse si è un po' persa, una freschezza di immagini, appunto di attività, di momenti, di ricordi, anche di luoghi, che forse oggi con... ecco, il mondo che un po' a volte si vive, si rischia un po' per la fretta, per tante altre cose, di perdere questo gusto, questo sapore, che invece ci ricordano magari immagini, foto, luoghi, giochi che invece giochi, si facevano da più piccoli. Quindi è un po' tornare alle proprie origini, in realtà, stiamo dicendo. Però torniamo al nostro argomento, attenzione evolutiva 3.0, la trasmissione di chi ha sangue nelle vene, di chi ha forza, di chi ha coraggio o di chi, quando non ce l'ha, la tira fuori da qualche parte. Un'altra cosa che mi ha colpito di come sei tu, Daniele, come persona, al di là del prete, che è il tuo compito, la tua vocazione, scusa, più che compito, è che ti ho visto molto orientato sugli obiettivi, a mio avviso. Quindi, che cosa vuol dire per te cercare di raggiungere un obiettivo, come se fosse un atleta? Cosa vuol dire per te cercare di arrivare a quell'obiettivo che ti poni? Usando un'immagine, allora, quella proprio del tiro con l'arco, potrei dire che per me raggiungere un obiettivo vuol dire fare centro e perlomeno avvicinarsi all'obiettivo, se proprio non riesco a centrarlo del tutto. Quindi è come, usando la metafora dell'arco, si prende la mira e si cerca di andare a beccare il punto centrale, mi stai dicendo, se non sbaglio, giusto? Certamente, primo devo cercare di aver chiaro l'obiettivo che voglio raggiungere. Potrebbe sembrare banale, potresti dirmi, ma certamente se non c'è chiarezza nelle idee e sicurezza poi nelle azioni, il rischio di fallire e così di raggiungere pericolosi livelli di delusione, che quella si prepara sempre dietro l'angolo e ti aspetta. Secondo ingrediente importante, ed ora sono costretto ad usare il plurale, sono gli strumenti. Però ecco, attenzione, in questo caso, come recitano certe ricette, è importante la dicitura quanto basta, nel senso che troppi strumenti rischiano, e l'avrai provato anche tu qualche volta, di appesantire il tutto, no? E di creare confusione. Infatti. E inoltre questi strumenti, non solo nel numero ma anche e soprattutto nella qualità, vanno scelti con sapienza e con particolare cura. Quindi mi stai dicendo che è importante lo strumento, ma che non diventi anche uno strumento troppo pesante. Insomma, io la metafora che uso spesso è questa, che molti di noi hanno dei sogni anche nel cassetto. Pensiamo anche ai nostri ragazzi, ma anche noi adulti, non so, possono essere anche dei sogni per i nostri figli, no? Che vadano a scuola, che siano sani, che stiano bene, anche per noi di avere un bel lavoro, di avere una bella situazione lavorativa, no? Un po' tutti abbiamo sogni, desideri, obiettivi, no, che magari alle volte confondiamo, per cui confondiamo un po', secondo me, alle volte il sogno con l'obiettivo, l'obiettivo col desiderio. Una cosa che mi ha particolarmente colpito invece, così osservandoti anche, dovete sapere una cosa, io Don Lupin sono andato a vederlo in segreto, mi sono messo in fondo ad una chiesa ad osservarlo, e mi ha molto colpito che Don Daniele è molto pratico anche nelle sue predicazioni, chiamiamole così, no? Utilizza molto le immagini, utilizza molto gli oggetti. Utilizza molto, e una delle immagini che mi ha colpito, ovviamente da coach, è stata questa, che non so se te la ricordi, quella della nave, della barca. Vuoi raccontarci un po' come è nata questa tua metafora, come è nata, da che tipo di esigenza è nata la metafora della nave, no? E mi ricordo esattamente che tu dissi appunto che la nostra vita è come una nave. Ci sono delle navi che rimangono ferme nel porto tutta la vita, magari sono navi bellissime, che però magari hanno, tra virgolette, paura di andare nel mare. Ci sono navi magari meno forti, meno entusiasmanti, meno potenti, che però prendono il largo. Come ti è venuta questa idea della nave? Allora, l'immagine della nave, beh, come forse saprai, è conosciuto tra l'altro anche mia mamma Antonietta, e la mia cittadinanza, oltre ad essere quella italiana, anche quella maltese, e nell'isola di Malta di barche ne ho avute molte da poter visitare, e anche tra l'altro ho avuto più volte possibilità anche proprio di navigare, quindi l'immagine della nave mi è cara anche per questo senso. E sicuramente, come ricordavi tu quella volta, riprendendo anche tra l'altro un testo trovato appunto in alcuni libri che avevo letto, e la nave mi ha dato lo spunto proprio per così paragonarla alla nostra vita, quando le varie situazioni ci fanno un po' interrogare e ci dicono: ma tu che nave sei? Perché a volte appunto la nave può essere, come accennavi, bellissima, dotata dei software e delle strumentazioni più avanzate, ma poi non riesce a togliere quegli ormeggi e prendere il largo. Il largo. E queste sono a volte un po' le insicurezze, le paure, ma a volte anche la nave è bello poterla vedere quando in un mare calmo appunto solca queste onde, e c'è tutta la piacevolezza anche di questa navigazione, dove ti fai, ecco, un po' accarezzare il volto dall'aria, ed è quando la vita ti va bene, appunto si dice a gonfie vele, no? E poi ci sono i momenti invece di tempesta, dove, ecco, farlo da padrone sembra essere la violenza del vento o la grandezza delle onde, ma anche in questi casi la nostra vita, ecco, può giocarsi la sua partita migliore, nel senso tirar fuori quelle che sono le nostre energie più profonde e anche le nostre capacità che magari non conoscevamo. Certo, anche qui non bisogna essere marinai sprovveduti, ma essere in grado di prepararsi anche un po' prima da terra, per poi appunto saper affrontare anche i momenti più difficili, più intensi, e non solo per noi, ma magari per riuscire anche a salvare le persone che stanno navigando con noi e sono magari i nostri amici, le persone che ci sono affidate, anche magari trainare qualche barchetta che c'è attorno a noi se siamo più forti, rispondere con attenzione, con esperienza, con perizia, anche a qualche magari a qualche SOS che ci arriva da qualcun altro. È una bellissima metafora e ti ringrazio per questa metafora. Sai che musica è dolore, sai che musica è rumore, sai che cosa c'è, sto bene, sai che cosa c'è, sto male, non mi chiederai permesso, se è concesso. Lascio il tempo, le promesse, lascio a te le tue certezze, la chitarra sopra il letto, i versi che non hai mai scritto, non ti chiederò permesso. Preferisco bruciarmi da solo che assecondarti adesso. Scoprire tensione evolutiva, tensione evolutiva, tensione evolutiva. Ben ritornati a Blu Radio Veneto, tensione evolutiva 3.0, con un graditissimo ospite, il famoso Don Lupin. Tornando un po' al discorso precedente, vorrei farti una domanda un po' personale, se puoi così accennare a qualcosa di questo. Che cos'è che ti appassiona di più nella vita e che cos'è che invece ti annoia di più nella vita, Don Daniele? Cioè, che cos'è che ti senti che ti dà più gioia, più forza nella vita e che cos'è che invece ti lascia un po' amareggiato alle volte nella vita? Quello che mi appassiona di più, dicevo, ultimamente sto scoprendo, è la comunicazione. C'è questa passione nel comunicare, qualcosa che per me è diventato così importante, a cui poi ho dedicato anche la mia vita. Ma la comunicazione in tutte le forme, come tu prima accennavi, anche quello di usare metafore, immagini, una comunicazione a 360 gradi. E quello che mi appassiona è il vedere anche quello che mi arriva dalle persone, sono sguardi, sono espressioni, a volte anche proprio parole che ti dicono un po' il feedback, quello che ti torna indietro, cioè quello che arriva alle persone. E questo mi dà la passione di anche correggerlo, di perfezionarlo sempre più e di non mollare mai. Ecco, la passione è proprio questo, la forza di non mollare mai, neanche quando appunto magari ti sembra di non aver detto le cose giuste oppure nel modo giusto. Poi arriva qualcuno che ti sorprende, ti spiazza e invece ti dice: guarda, mi ha colpito il cuore, grazie. E questo quindi ti dà anche la voglia di andare avanti, appunto quando anche magari non credi di aver fatto bene. La cosa che invece mi annoia di più nella vita, beh, credo sia proprio la monotonia e l'abitudine. E l'abitudine. Perché vanno a scontrarsi con quelle che invece sento di avere come forze dirompenti dentro di me, che sono la fantasia e la creatività. Quindi ti piace la comunicazione, ti piace comunicare con gli altri, ti piace la creatività e ti annoia, diciamo, la monotonia, da quello che ho capito. Sì. Non so se hai sentito in questi giorni una notizia che mi ha colpito da sportivo. Il Calcio Padova sabato scorso ha preso una grande batosta, l'ennesima, ha perso 4-1 in casa, pensa, Don Daniele. E questo si rifà un po' anche alla tua dinamica di, credo, di sacerdote, di prete coach, ormai ti chiamano così in parrocchia, per cui, e lo sei anche in realtà. Se tu fossi l'allenatore di calcio, come faresti a motivare questi giocatori? Come faresti in questa situazione drammatica? Perché effettivamente è una situazione molto difficile anche a livello sportivo, no? Pensa all'ambiente, come lo potresti trovare. Com'è che potresti aiutarli a raggiungere l'obiettivo della salvezza? Se tu fossi il coach del Padova Calcio, sarebbe una bellissima esperienza questa, anche da proporre al buon direttore del Calcio Padova. Se tu fossi l'allenatore, cosa faresti per rimotivare questi ragazzi? Che poi in fondo sono ragazzi, prendono anche tanti soldi, ma non lo so adesso quanto prendono perché sono in Serie B. Però se tu fossi l'allenatore, cosa faresti? Beh, prendendo proprio spunto dal cognome di questo allenatore, direi che mi preoccuperei di fare in modo che la situazione, ecco, sia il più serena possibile. Il suo cognome è proprio Serena. Serena, sì. Ecco, allora... Basta che non sia troppo serena, però. No, perché però dopo ci si adagia e non... Ecco, direi che quando c'è la preparazione tecnica, sì. E questo a volte però mi accorgo anche nelle nostre squadre, della nostra polisportiva numerosa, 450 atleti. 450? Sì, sono proprio tanti. E direi che, ecco, mi accorgo, e lo postavo anche su Facebook qualche giorno fa, che, ecco, a volte abbiamo ci preoccupiamo di avere la tartaruga sulla pancia, ma poi abbiamo in testa i criceti che girano. Cioè, non basta solo una preparazione fisica, ma, e questo se fossi io, Serena, questo nuovo allenatore, credo lo metterei in atto, sarebbe proprio quello di creare una situazione, ecco, serena anche al di fuori dell'ambiente di gioco, che sono anche i rapporti con tutte le persone che ruotano attorno a questi giocatori. Forse a volte focalizziamo l'attenzione proprio solo su di loro. In realtà, ecco, dare anche attenzione e fare in modo che ciascuno faccia bene la sua parte, ma dal preparatore atletico a quello che pulisce spogliatoi, cioè a tutto l'ambiente sportivo della società. Ecco, questo credo anche in altri ambienti mi raccontano, dà dei risultati che forse ecco, non li vediamo fuori dal campo, ma che poi i loro risultati invece verrebbero forse anche in un punteggio, in un risultato vittorioso che tutti aspettano, credo, soprattutto i tifosi del Padova. Infatti, quindi tu punteresti molto sulla qualità personale, in realtà, da quello che stai dicendo, e anche sul lavoro di gruppo, non solo all'interno della squadra, ma anche fuori nell'organizzazione e anche nella qualità delle persone, che in realtà è quello che si sta cercando di fare anche nelle aziende. Cioè, per molto tempo nelle aziende si è sempre puntato al gran lavoro, alla capacità, diciamo, della persona di lavorare tanto, magari di lavorare poco in gruppo, ma lavorare tanto, no? Questo termine, no? Usato in Veneto, quindi lavorare ore e ore e ore e ore, che in realtà poi è stata un'arma un po' a doppio taglio per molti. In realtà adesso sto scoprendo anch'io che si sta cercando proprio di fare di tutto per fare gruppo. Io sono stato, ho avuto un'esperienza bellissima alla Google, pensa, a Losanna, e lì sono straordinariamente capaci dal punto di vista dei risultati, eppure tu entri e c'è subito un tavolo da ping pong. Quindi vedi questi ingegneri che giocano a ping pong, no? Anche la metafora dello sport, e tu l'hai citata appunto su Facebook, e l'ho vista anch'io lì su Facebook. Che consigli ci puoi dare per raggiungere i nostri obiettivi? Dacci dei consigli, dacci motivazione, tu che ne hai così tanta, dacci dei consigli. Un po' lo accennavo prima, dicevo, la chiarezza, avere le idee chiare, sicurezza nelle azioni, strumenti non numerosi ma buoni, autentici. Poi credo che appunto non possa mancare la tecnica, quindi anche lo studio, e infine, a condire il tutto, non può mancare, e forse dal resto non è neanche l'ultimo punto ma è forse il primo, una grande dose di passione. E per concludere anche il discorso di prima, e aggiungerei un'ultima cosa: se non conosco il budget della società del Padova, del calcio Padova, ma ecco, direi, dopo tutto quello che abbiamo detto anche oggi, direi che se, ecco, avessero qualche soldo in più da spendere, lo vedo anche in altre società, forse io lo spenderei, fossi il tecnico nuovo Serena, nel assumere un mental coach, appunto per l'importanza che dicevamo della preparazione non solo fisica ma anche mentale. Infatti, potrebbe essere un ottimo consiglio, anzi io ti prenderei se fossi il direttore tecnico, anche perché ti vedo nel concreto come stai facendo con i tuoi ragazzi. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all I give you all of me, and you give me all of you. Ben ritrovati a Blu Radio Veneto, Tensione Evolutiva 3.0, la trasmissione che ci dà passione, che ci dà forza, che ci dà entusiasmo. Quest'anno la Diocesi di Padova, tra l'altro, tratta proprio il tema del cuore, della passione. E anzi, ringrazio Don Marco perché ci ha dato la possibilità di fare, di realizzare questo programma. E come potremmo salutarci, Don Lupin? Cosa ci puoi dire per salutarci? Io intanto ho due persone da salutare. Giovanna, ciao Giovanna, e gli altri del gruppo di Sei di Stanghella Secche, è un gruppo veramente straordinario. Cosa ci puoi lasciare per salutarci? Prendendo spunto dal titolo di questa trasmissione, Tensione Evolutiva, e per riprendere l'immagine con la quale abbiamo un po' aperto, quella dell'arciere, il nostro famoso arciere, direi che proprio, ecco, l'immagine è questa, un arciere che tende l'arco verso questa tensione evolutiva, avendo però, come dicevamo prima, ben chiaro il punto di arrivo e tutta quella preparazione che ci sta alle spalle. Benissimo, io direi che ti ringrazio tanto perché abbiamo sviscerato bene la tematica. Ti ringrazio proprio di cuore perché sei venuto qui tra di noi. Ringrazio soprattutto appunto la direzione di Blu Radio Veneto perché ci sta accompagnando in questo percorso che, ricordo, durerà tutti lunedì sera, in replica al sabato mattina e anche su podcast, quindi avrete la possibilità anche di riascoltarci, di riascoltare un po' tutte le nostre trasmissioni. Ringrazio di cuore tutti i nostri amici. Vuoi ringraziare qualcuno? Non so, come si fa, la mamma, non so, il papà, come si fa nel mondo dello spettacolo? Beh, tu hai avuto modo anche di conoscere la mia numerosa famiglia, li saluto tutti, ma così in generale direi vorrei salutare tutti quelli che oggi si sono messi in ascolto di queste frequenze e che vorranno ritornare ad ascoltarci nei prossimi giorni. Io ringrazio soprattutto le persone che in questo momento qui storico sono in difficoltà. Sono in difficoltà magari di lavoro, sono in difficoltà magari perché sono in ospedale. È sempre nostro compito cercare di dare rilevanza anche agli ultimi, anche alle persone che in questo momento stanno male. E io vi posso solo dire che ricordatevi tensione evolutiva. Cioè noi siamo qui, cerchiamo di mettercela tutta, cerchiamo di restare qui assieme, come una squadra, come si è detto prima. Arrivederci da Giovanni Garavello. Alla prossima. Ciao a tutti. Tensione evolutiva.